Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. È in libreria l'ultimo libro di Luis Sepúlveda, lo scrittore cileno famoso per romanzi come Il vecchio che leggeva romanzi d'amore e Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. In molti libri, e anche in quest'ultimo che si intitola Ritratto di gruppo con assenza, pubblicato da Guanda con la traduzione di Ilide Carmignani, Sepúlveda parla dell'esilio. Lo scrittore cileno, lo ricordiamo, fu arrestato durante la dittatura di Pinochet, torturato e costretto a passare 7 mesi in una cella minuscola. Fu poi scarcerato grazie alle pressioni internazionali, ma costretto a 14 anni di esilio, molti dei quali trascorsi in Germania. Stavolta Sepúlveda non ci propone un romanzo, ma una raccolta di appunti, riflessioni e racconti. Nel primo racconto, che dà il titolo al libro, Ritratto di gruppo con assenza, parla del suo ritorno in Cile, alla ricerca dei bambini di un quartiere povero di Santiago, che aveva visto immortalati in una foto durante l'esilio. Torna sulle loro tracce per poter rifare la stessa fotografia 8 anni dopo, come lui stesso ci racconta. Ma la storia è una storia bella, no? Un giorno io ho visto questa foto di un gruppo di ragazzi di un quartiere povero del Cile, fatta da una fotografa tedesca, e era una foto molto strana, molto speciale. Aveva qualcosa di un'enorme tenerezza in un gruppo di bimbi poveri, no? E la prima domanda che mi è arrivata è stata: per quanto tempo conserveranno questa tenerezza, no? E è stata una sorta di ossessione, no? Comprovare che è successo con questa tenerezza. Hanno diventato giovani, adulti. E così, quando ho tornato al Cile, anche con la stessa fotografa, abbiamo fatto un viaggio a questo quartiere per cercare questo gruppo, no? Abbiamo cercato, mancavano 2. E la conclusione sta raccontata, no? Che è successo con questa tenerezza, che era la grande vittima della dittatura, no? Perché lo più terribile di una dittatura è che la società sempre perde tantissime cose, ma una è importante, no? L'innocenza che è persa, no? La tenerezza nei confronti con la vita che è persa. Quindi questo tornare in Cile, rifare quella foto con i bambini a distanza di 8 anni, è un po' la metafora di quello che è successo nel Cile. Vero, sì, è la metafora di quanto tutto quanto aveva successo, no? Certamente oggi il paese è cambiato, no? Ma in questo tempo, all'anno 90, era credo che la metafora più precisa, no? Per esplicare che qualcosa aveva successo, no? Nell'infratempo. E allo stesso era una forma di raccontare di un altro punto di vista, no? Il dramma di questa gente povera che era vittima della repressione per la semplice ragione di essere poveri, no? Di esistere come gente povera. Anche in altri romanzi, in altri libri, lei naturalmente parla spesso dell'esilio. In questo, in particolar modo, dice che il tempo è la cosa che non manca mai durante l'esilio. Quali sono invece le cose che le sono mancate di più? Bene, sempre che penso nell'esilio, la prima conclusione è che il tempo aveva un'altra dimensione, no? Il tempo aveva una sorta di dimensione infinita, no? Di una parte perché uno sapeva che tutte le dittature si prolungano nel tempo da più che il desiderio personale, no? E dopo perché il confronto con l'esistenza, no? La necessità di sopravvivere, di lavorare, di apprendere un'altra lingua e lavorare in cose che non sono precisamente la tua professione, la necessità di fondare un universo emozionale forte con amici, famiglia, eccetera, faceva che il giorno aveva, non so, 30 ore, 36 ore, no? Il tempo si allungava. Che cosa invece che le mancava soprattutto? Credo che le cose normali, no? Poi stare con, non so, la famiglia. Per esempio mio padre è morto quando io ero nell'esilio e non mi hanno permesso di andare anche al funerale. No, ma credo che non è stato un nostalgico della cucina cilena, neanche un nostalgico del paese, no? Ma mi mancava sì questa forma dell'essere cileno, no? Profondamente sociale, comunicativo, divertente. Ma anche questo se... Abbiamo fatto una piccola riproduzione nell'esilio quando eravamo un gruppo di cileni, procuravamo comportarnos come se questo posto nella Germania, nella Francia, nell'Italia diventava sempre un piccolo Cile per sviluppare e per mantenere la nostra forma dell'essere. Infatti lei scrive spesso che durante l'esilio si tende molto a fare gruppo all'estero. Sì, era sempre stata una tendenza, no? Era una sorte, l'esilio era una sorta di Nazioni Unite di diversi gruppi. Sempre quando, ricordo che sempre era famoso un incontro che si faceva a Copenaghen, in Danimarca, no? Che era organizzato da un gruppo di esiliati argentini che sempre invitavano a una sorta di olimpiata culturale dell'esilio. E arrivavano gli uruguayani, i cileni, gli argentini, i peruviani, i colombiani, di altri paesi dell'America Latina, per un semplice intercambio di cose, no? Di impressioni, come si vede il mondo da fuori, no? Come sentiamo il mondo da fuori, come sentiamo i nostri paesi. In questo libro si racconta anche come è nata l'idea di scrivere Il vecchio che leggeva romanzi d'amore. Lei stava facendo una battuta di caccia, inizia a piovere, insieme a un'altra persona si rifugia in questo casolare dove c'è questo vecchio. Che cosa la colpì di questa persona? Mi ricordo che era un uomo molto silenzioso, che se non parlava, parlava pochissimo, e veramente con un amico di questa etnia Shuar siamo arrivati alla casa di questo vecchio per prendere rifugio, avere una tormenta terribile, una tormenta amazzonica, e quasi senza parlare ha compartito con noi questo che aveva da mangiare, no? È arrivata la notte, ha compartito anche un sigaro che aveva e un po' di alcol, no? E io ho stato testigo di questo miracolo, no? Che ha cominciato a leggere, no? Claro, siamo in Europa, siamo in Italia, leggere è una cosa assolutamente normale, ma in mezzo della foresta amazzonica, vedere un uomo vecchio che prende un libro e comincia a leggere, no? È stato per me una cosa magica, miracolosa, no? E ha rimasto nella mia testa, no? come una figura letteraria straordinaria. Fra i tanti libri che lei ha scritto, ce ne sono tanti che sono stati straletti in tutto il mondo, ce n'è uno a cui è particolarmente legato? Sento un particolare collegamento con un romanzo, che è un romanzo che sto scrivendo adesso, no? Ma perché è una sorta di biografia generazionale, non è un'autobiografia, è la biografia della mia generazione, no? E lo sto scrivendo da quasi 3 anni di lavoro, lentamente, perché mi fa un enorme piacere scrivere questo, no? E un altro, non so, credo che un romanzo che si chiama Nome de Torero, no? Che il personaggio ha tanto di me, io le ho donato parte della mia esperienza personale a questo personaggio e sento un rapporto molto speciale con questo romanzo. La storia della gabbianella e del gatto che le insegnò a volare è uno dei libri più letti, insomma, negli ultimi anni. E quel libro che rappresenta per lei? Tante cose, no? Primo che, beh, che è stato difficilissimo da scrivere, perché scrivere per questo piccolo lettore, no? Non è facile. Se il linguaggio è una sfida, no? Si deve descrivere senza ambiguità, ma allo stesso tempo questo piccolo lettore ti esige un linguaggio poetico, no? E il senso dell'umore deve essere molto medito, comedito, no? E mi ha significato un sacco di amici, no? Che amano questo libro, e la soddisfazione di sapere che questa gente che hanno 5, 6, 8, 10, 15 anni lo hanno capito, dopo della lettura lo hanno capito della forma in che io volevo che questo libro doveva essere capito. E questo era Luis Sepúlveda, ora in libreria con Ritratto di gruppo con assenza. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it, anche in versione podcast. Ci trovate pure su Facebook. Un saluto da Alessandra Tedesco.